La vita in un film di Franco D'Assisi. Dite quello che volete, però non vedere mamma e papà dentro la nostra casa mi distrugge il cuore. Non fare così, tesoro. In fondo vanno a stare da tuo fratello, mica vanno da un estraneo, no? Ma finirà tutto, capisci? Finirà il Natale, finirà la gioia di questi giorni. E adesso mamma e papà hanno bisogno del nostro aiuto e ce lo vengono a chiedere. Dio mio. Filippo, lasciami la mano che non riesco a girare il cappuccino. Straordinaria, la vita è un film, siamo insieme per raccontare questa sera una cosa che forse tocca a tutti, parenti serpenti. Quante volte ci siamo trovati in una situazione di famiglia, in una di quelle feste comandate magari nelle quali bisogna stare tutti insieme, come si dice bisogna essere anche tutti buoni, ma non è solo Natale, possono essere ricorrenze di ogni tipo, ma qualcosa se va fuori posto fa veramente saltare per aria tutto quanto. Buonasera da Franco D'Assisi, la vita in un film, come sempre insieme, tutte le sere da lunedì al venerdì per rivedere un pezzo di noi dentro un film o dentro più film. Questa sera il film che abbiamo scelto come emblematico di questa cosa, che appunto di questo tema che appunto abbiamo riassunto in Parenti Serpenti, è proprio il film omonimo di Mario Monicelli, Parenti Serpenti del 1992, riunione di famiglia in una bella casa di Sulmona, Natale, arrivano tutti a casa dei nonni e però c'è un tema nuovo, diciamo, all'ordine del giorno, che è quello di come fare ad affidare, insomma, i vecchi a qualcuno. Loro vorrebbero stare a casa di uno dei figli, non vorrebbero finire i loro giorni in solitudine oppure in un ospizio. Decidano loro, purché si prenda una decisione. Chiaramente questo elemento fa scaturire liti continue. Noi vi aspettiamo all'800 24 00 24, il nostro numero verde, per partecipare alla vita in un film e anche per avere in omaggio i primi tre ascoltatori che chiameranno, come sempre, tanti biglietti per il cinema. 800 24 00 24, c'è anche la possibilità di scrivere sms 349 238 6666. Ascoltiamo un'altra parte di Parenti e Serpenti. Però devi ammettere che a te sono molto più affezionati. Tu sei sempre stata più presente. Quanto ci metti pure tu? È certo che sono stata più presente, sono quella che abita più vicino. Allora, se la mettete su questo piano, vi devo dire che proprio per questo me l'avete sempre messo nel di dietro, con rispetto parlando. Quando l'anno scorso papà ci ha operato la vescica, chi c'è stato a fare le nottate in ospedale? Io, sola, senza un cane che mi desse un cambio. Scusa, Lina, ma non ti ricordi che ti telefonavo tutti i giorni per chiederti se volevi che io venissi a darti il cambio? E tu hai sempre detto di no. Adesso, se vuoi fare la vittima, io... ho detto di no perché sei un uomo. Era tua moglie che doveva venire. Perché se c'era da fare un caffè, almeno lo sapeva fare. E questo era lei che lo doveva capire, che dice di avere una certa sensibilità. Ma siccome tua moglie la sensibilità ce l'ha solo da una parte, vabbè, lasciamo perdere che è meglio. Allora vuol dire che questo discorso riguarda anche me. E si capisce? Povera Milena, diceva mamma, telefona sempre. Però la padella sotto al culo a papà gliela mettevo io. Cara, io sono 20 anni che me li ciuccio. Ora basta, ciucciateveli voi. Hai sbagliato, non lo dovevi fare. Ma pure? Certamente, perché così facendo li hai educati male. E ora chi ne fa le spese siamo tutti quanti noi. Se si fossero abituati a vivere da soli, a fare affidamento solo sulle proprie forze, adesso non saremmo qui a parlarne, non ti pare? Filippo ha proprio ragione, cara. Gesù, ma mi devo sentire pure in colpa per averle aiutate. Lina, purtroppo è la verità. Tutti noi ci siamo dovuti adattare ai tuoi comportamenti per non fare poi noi la parte dei figli ingrati. È vero. Hai fatto così per arruffianarti la mamma e il papà. Ecco perché l'hai fatto. Ebbene, abbiamo voluto tenere questa clip un po' più lunga perché è proprio esemplificativa di una parabola, no? Di come chi fino a quel momento si è occupato in qualche modo di questi anziani genitori a un certo punto finisca quasi per essere anche messo sul banco degli imputati. 800 24 00 24, Parenti Serpenti è il tema della nostra trasmissione di oggi. Raccontateci quando vi è capitato di trovarvi in situazioni di questo tipo e soprattutto se vi è capitato di rivedervi in uno dei tanti film, a partire proprio da Parenti Serpenti, che raccontano queste crisi familiari che esplodono improvvisamente. Ce ne sono stati tanti anche nella commedia italiana, ma anche nei tempi recenti, per esempio Rachel sta per sposarsi, oppure una riunione di famiglia di Thomas Vinterberg, film proprio degli ultimi tempi che hanno raccontato anche dall'estero, visto che questo è un tema assolutamente universale, questo tipo di situazione. È con noi Mario Monicelli, il più grande maestro vivente del cinema italiano, senza ombra di dubbio, e siamo molto contenti di averlo con noi per raccontarci e parlarci proprio di questo film, di questo Parenti Serpenti del 92. La prima domanda che gli vogliamo rivolgere è proprio quella dell'idea base di questa commedia, Parenti Serpenti, sentiamo. È un film che narra appunto la verità sulla famiglia piccolo borghese italiana di provincia, che è quella del fondamento della nostra quotidianità, della nostra realtà. Direi che nasce poi fra l'altro da un bellissimo soggetto di questo amoroso, che è un ragazzo di Lanciano, che è una cittadina vicina a Sulmona, in Abruzzo, e che raccontava in parte anche della sua famiglia, in parte, e quindi raccontando sempre con gli stessi autori con la quale ho fatto Amici miei, si capisce anche la mano che è la stessa, sembrano due cose molto diverse, ma la mano è la stessa nella cattiveria, nella parte corrosiva, dura, poi addirittura adesso poi addirittura c'è un omicidio in famiglia con un'esplosione alla quale io ho aggiunto per far sì che il film alla fine non fosse che si prendesse che era una farsa, cioè che erano forzati i toni e che non volevo raccontare una verità proprio messa lì per lì, che però per direi 4/5 del film era la realtà che stava intorno a voi, le famiglie, piccolo borghesi, quando si radunano insieme, in occasione delle festività, eccetera. E se tutto va bene, ci sono sempre le solite espressioni di affetto, anche di lacrime agli occhi. Se poi nasce un qualsiasi contrasto di interessi che modifichi il livello di vita, di abitudini, eccetera, si è pronti a qualsiasi prezzo, pur di rimanere, pur di non cambiare la propria condizione nella quale ci si trova bene, un egoismo criminale. Mario Monicelli, fra poco ancora con noi, abbiamo la prima telefonata di questa puntata, Tiziano dalla provincia di Lecco, buonasera. Buonasera, grazie per l'opportunità. Allora Tiziano, raccontaci un po' perché hai rivisto qualcosa, insomma, della tua vita, di un passaggio della tua vita in questo film. Non proprio della mia vita, però diciamo che in effetti la realtà è questa qui. Forse quando è stato girato nel 92 Parenti Serpenti, il problema dei genitori anziani, che è un problema che oggi è ancora maggiore rispetto allora, perché fortunatamente la vita si è allungata, e c'era effettivamente molta ipocrisia nella gestione di queste cose da parte un po' di tutte le famiglie. Oggi ci sono le badanti che in qualche modo insomma hanno risolto il problema. Non l'hanno risolto, ma lo aggirano un pochettino, ecco. Senza dubbio. Allora Tiziano, essendo il primo ascoltatore di questa serata, hai la possibilità di andare 5 volte al cinema nella prossima stagione con il cofanetto Wazoo 5 serate di grande cinema, e quindi insomma goditi i migliori film della prossima stagione. La vita in un film. Di nuovo insieme alla vita in un film, stiamo parlando di Parenti Serpenti, tutte quelle volte che ci siamo rivisti in un film al cinema nel quale una situazione familiare esplodeva almeno in una forma di disagio, se non in litigate vere e proprie. 800 24 0024 per dire la vostra. Abbiamo in linea Alessandra dalla provincia di Forlì. Buonasera Alessandra. Buonasera. Allora, il suo film di riferimento su questo tema qual è? 13 a tavola. Appena lanciato l'argomento mi è balzato subito agli occhi che quando l'ho rivisto proprio io ritornavo bambina, perché avendo una famiglia abbastanza numerosa, quando ci si ritrovava in quel modo me l'ha ricordato, ma proprio tantissimo. Tra l'altro 13 a tavola ha un merito, Alessandra, il fatto che mentre molti film che appunto vedono queste esplosioni familiari sono ambientati sotto le feste di Natale, quasi a volere mettere un distacco, no? Rispetto a questa cosa, questo invece racconta un'altra cosa, cioè l'estate, che è un altro grande momento in cui le famiglie si riuniscono. Perché anche noi lo facevamo comunque in tantissime circostanze, e soprattutto non succedeva quasi mai a Natale, ma nei periodi estivi perché tutti erano più disponibili, quindi queste mangiate interminabili, e per me rivederlo è stato proprio rivedere l'Alessandra quando aveva 15 anni che andava con i genitori a fare queste mangiate. E quindi insomma c'è davvero un pezzo del suo percorso umano e privato. Alessandra, due biglietti anche per lei per il cinema, più di 2000 sale in cui scegliere, insomma c'è l'imbarazzo della scelta durante il prossimo autunno o magari anche subito in estate, ma sicuramente c'è qualcosa di più da vedere durante l'autunno per andare al cinema. Noi passiamo invece a Pietro dalla provincia di Vicenza che ci ha chiamato. Pietro, allora quale film per identificarsi in questo tema? Sì, buonasera a tutti intanto. Io questo film l'ho visto molti anni fa e sinceramente è stato premonitore di quello che poi è accaduto all'interno della mia famiglia, perché poi nel momento del bisogno sono cadute molte ipocrisie e purtroppo è successo questo. Anche se ho notato che a 360 gradi succede un po' in tutte le famiglie, quando in realtà c'è da caricarsi quelli che sono i genitori. È sicuramente un momento difficile, ovviamente diciamo che la vita che si fa soprattutto nelle grandi città, perché penso che i piccoli centri siano un po' più in questo senso più che attrezzati, un po' più adatti a gestire questo tipo di situazioni. La vita e i tempi della vita nella grande città rendono chiaramente difficile oggi come oggi questa gestione, però sicuramente è vero che quando qualcuno di noi viene spostato poi dalla sua quotidianità si finisce anche di essere fratelli in questo senso e salta tutto per aria, no? Sì, infatti. Poi per fortuna con il passare degli anni si capiscono magari tante cose, si matura sotto molti aspetti, però effettivamente è stato un film proprio che mi ha colpito e che spesso infatti ricordo molto nelle frasi di tutti i giorni che dico, vabbè, parenti serpenti in molte situazioni, insomma. Allora Pietro, due biglietti per il cinema anche per lei, grazie per averci chiamato all'800 24 00 24, vi ricordo anche il numero per gli sms 349 238 6666 e perché no anche la mail lavitainunfilm@radio24.it, perché potete darci anche dei consigli su tematiche per le prossime puntate. Questo è un cantiere sempre aperto, quindi c'è spazio per tutti. C'è un messaggio sms di Santina che dice: i parenti e in special modo i genitori anziani sono sopportati finché c'è da spolparli. Insomma, la mette giù in maniera abbastanza critica, ma non senza un fondo di verità. C'è un elemento nel film di Mario Monicelli che è un elemento, se vogliamo, non centrale ma interessante, perché 20 anni dopo siamo ancora qui a raccontare la stessa cosa, ovvero il tema dell'omosessualità che diventa un elemento anche di deflagrazione del film. Cioè ieri come oggi motivo di scompiglio nella famiglia italiana, come sentiremo Alessandro Haber, che è l'attore appunto che recita il ruolo del fratello a cui vengono affidati i genitori, è appunto omosessuale e proprio in quel momento rivela la sua omosessualità. Sentiamo una clip del film e poi ancora Mario Monicelli su questo tema. E così secondo voi dovrei rinunciare alla mia vita, alla mia indipendenza, a 10 anni di training autogeno per questi 4 muri e un po' di soldi in più? Alfred, il fatto è che tu sei l'unica persona senza responsabilità, senza famiglia, l'unica che vive da sola. Ma io non vivo solo. Non vivi da solo? No, sono 10 anni che coabito. Sono 10 anni che stai con una donna e non ci dici niente. Ma chi è? Che fa? Come si chiama? Si chiama Mario e fa il vigilante. Sì, ma non è tanto quello che cambia i rapporti fra la famiglia, perché sono disposti anche a accettare alla fine che ci abbia un familiare omosessuale. No, la famiglia tratta quando i due vecchi dicono chi di voi si prende cura di noi, e lì nessuno li vuole a casa. Cioè, la cosa drammatica, repellente è che nessuno dei figli vuole prendersi a casa il carico di questi due vecchi, nessuno. E allora tacitamente li fanno fuori. Mario Monicelli, ci sono, dicevo, tanti film che hanno raccontato questo tipo di divergenze che esplodono quando la famiglia dal rapporto telefonico a distanza passa nuovamente al sentirsi pelle contro pelle, che a volte non è semplice da gestire. Uno di questi film è Benvenuti in casa Gori. Tra l'altro siamo ancora in Toscana e siamo ancora in quegli anni, il 90 appunto di Benvenuti in casa Gori, il 92 di Parenti Serpenti, e poi Benvenuti in casa Gori ha avuto un remake, ritorno in casa Gori qualche anno dopo. Anche qui grande comicità, anzi qui sicuramente si pigia di più sull'elemento della comicità. Ascoltiamo un passaggio audio di quel film di Alessandro Benvenuti. E così anche quest'anno è arrivato il Natale. Allora, Caranelle, visto che siamo a disse le cose, diciamocele tutte. Dal momento che voi vi siete presi la casa paterna e dal momento che noi si vive in due stanzucce umide, il babbo sta con voi, perché se ci avesse avuto posto, lo sai da quanto l'avrei portato via di qui? Andiamo ad esserci venivo io. Lo senti a testa già? Questa è una discussione fra me e la mia sorella. Ma gli è Natale, ma se non ci si può bene oggi, ma allora, ma ditemelo voi, quando? Questo era Benvenuti in casa Gori. Noi siamo in collegamento con una ascoltatrice da Napoli all'800 24 00 24. Luisa, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, so che lei... che lei mi ha invitato a questa conversazione. Ma il piacere è tutto nostro, si figuri. Perché ma lei ha una domanda, no? Sono lancianese, abito da oltre 50 anni a Napoli, però non ho mai tagliato il mio cordone con la mia Lanciano. A me, che ho rivissuto in quel film dei momenti sia della mia adolescenza per i nonni con 9 figli, come erano stati trattati, poi un po' con i miei genitori e adesso forse lo rivivrò anch'io con i miei figli. Allora chiedo al signor Monicelli perché non ha lasciato a Lanciano il film, che è così vera la storia che lui ha trattato a Sulmona. Non la trovo sul molese la storia, la trovo lancianese verace. Perché ha fatto questo? Però adesso le faccio rispondere, signora Luisa, ma mi spieghi perché c'è questa differenza fra lancianese e sulmonese? Sono diversi sulmonesi dai lancianesi, c'è tanta diversità e il film è stato messo fuori posto. Praticamente sarebbe stato molto più bello se si fosse vista Lanciano. E se avessi, perché i nomi poi sono lancianesi, Pozzolini, Mazzoccone, sono i luoghi che io ho frequentato dall'infanzia all'adolescenza fino a che non mi sono sposata nel 55 qui a Napoli. Allora, signora Luisa, facciamo rispondere Mario Monicelli, sentiamo. L'ambiente che aveva ipotizzato l'autore del soggetto era Lanciano, che è una cittadina in Abruzzo, più o meno come Sulmona. Lui insisteva perché io lo facessi lì, lui l'aveva immaginata lì, era la sua cittadina di nascita, e quindi io l'ho visitato, cioè non mi andava bene, come avevo in testa io, e beh, guardandole, visitando altre decine di cittadine in tutta Italia, però io volevo rimanere in Abruzzo perché mi piaceva quel dialetto non troppo forzato, però che avesse una punta meridionale senza essere poi al solito napoletano oppure siciliano, che avesse solo un accento così di meridione e avesse un tono anche quello come era Abruzzo, abbastanza riservato anche dal punto di vista direi architettonico, era una cittadina carina, ma non troppo con le solite cose come la bellezza, la chiesa speciale, il reperto ancestrale o il medievale o antico romano, era una cosa più semplice, più modesta ma più autentica, ecco. E questo era appunto Mario Monicelli sui perché, speriamo di avere risposto la signora Luisa da Napoli, sui perché dell'ambientazione appunto a Sulmona. Noi abbiamo ancora un minuto e allora vi facciamo ascoltare un passaggio di un film di 2 anni fa, Riunione di famiglia di Thomas Vinterberg, che già quasi 10 anni prima aveva scritto in Festen, aveva raccontato in Festen un'esplosione appunto all'interno di una famiglia, lì in maniera drammatica. Il Riunione di famiglia un po' più nel lato comico. La cosa molto carina è questa sorta di piccolo decalogo di come comportarsi durante i ritrovi familiari. Quando organizzi una cena di famiglia, devi seguire queste regole fondamentali. Primo, ricorda bene le bugie che hai raccontato. Mi avevi detto che papà era morto. Ho detto questo. Secondo, se inviti la tua fidanzata... Guarda. Buonanotte. Tieni alla larga l'amante. Mi fa piacere rivederti. Terzo, attenta a tuo padre. È un Don Giovanni. Tu sei mio Non ho capito una parola. Guarda, e scegli bene cuoche e camerieri. Questa volta funzionerà. Guardate. Licenziato. Voglio fagiolini, carciofi, zucchine, melanzane, peperoni, di tutto di più, montagna di verdure, ora! Licenziato. E questo allora era Riunione di Famiglia. Noi vi salutiamo, grazie per l'assistenza a Valeria Coffaro, per la regia Pietro Lacorte. Vi ricordo, domani il tema sarà il mondo guidato dalle donne, con Giuliana De Sio ospite, speriamo che sia femmina, film simbolo. Grazie per averci seguito, La vita in un film, l'appuntamento domani, un saluto da Franco D'Assisi.